La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato al partigiano Rosario Bentivegna, scomparso lo scorso 2 aprile all'età di 90 anni. Nel 1944 Bentivegna guidò l'attacco a Via Rasella a Roma. L'azione si svolse nell'ambito della lotta di liberazione nazionale condotta contro il nazifascismo. Vi furono 42 morti, 37 soldati tedeschi e 5 civili italiani, a cui seguì un'efferata rappresaglia tedesca, l'eccidio delle Fosse Ardeatine. Ospite ai nostri microfoni l'autore, lo storico Giovanni De Luna. Ma ora la parola va a Dino Pesole. Rasella non fu né il principio né la fine della resistenza a Roma. Purtroppo, quando si parla della resistenza romana, che ormai è ignorata dai più, è stravolta dai falsi e dalle polemiche interessate. Quella che avete appena ascoltato è la testimonianza tratta dalla puntata della Storia e la Memoria del 18 marzo del 2004 di Rosario Bentivegna, il partigiano dei GAP che prese parte all'attacco del 23 marzo del 1944 a Via Rasella a Roma contro una colonna di militari tedeschi, in seguito alla quale, come sappiamo, i nazisti compirono l'eccidio delle Fosse Ardeatine. Bentivegna è morto a Roma lo scorso 2 aprile all'età di 90 anni. Secondo la Corte di Cassazione, che ha posto fine a una lunga vicenda politica anche processuale, quella di Via Rasella fu una legittima azione di guerra contro il nemico occupante. Ed è proprio quel che Bentivegna ha sostenuto nei processi in cui è stato coinvolto ed ha raccolto così nel suo libro Achtung Banditen, prima e dopo Via Rasella, gli attimi che precedettero l'attentato. Si avvicinarono a me, ebbri di sicurezza e di un sole usurpato, che non era il loro. Non era loro quella primavera, quei colori. Erano loro il terrore, la morte che avevano seminato per le vie di Roma, la guerra che avevano portato dentro le case e le scuole, ma anche la morte che era in agguato sulle montagne e dietro gli angoli delle nostre strade, cui non servivano da freno il coprifuoco e la fame, le rappresaglie e le torture, la morte che li colpiva improvvisa, che li terrorizzava e dava l'avviso di una giustizia che non avrebbe tardato troppo a sopraggiungere. I tedeschi sono entrati a Roma l'11 o il 12 di settembre, dopo aver firmato con coloro che si battevano perché non entrassero un armistizio, nel quale riconoscevano a Roma la qualifica di città libera, non di città aperta, perché non era città aperta Roma, presidiata dalle parti dell'esercito italiano, in cui loro non sarebbero entrati, e chiedevano in cambio soltanto l'occupazione della loro ambasciata, il controllo di Roma prima dell'EIAR, la radio di allora, e il controllo delle centrali telefoniche. Due giorni dopo, quando la battaglia si era spenta, invasero Roma e la occuparono. In questo contesto, come ricordava adesso Rosario Bentivegna, matura l'operazione militare che condurrà alla strage di Via Rasella. È il 23 marzo del 1944, prime ore del pomeriggio. Roma è occupata dai nazisti. Un giovane partigiano di 22 anni, Rosario Bentivegna, appartenente ai gruppi di Azione Patriottica che lottano in clandestinità contro i tedeschi, nome di battaglia Paolo, vestito da spazzino, è in via Rasella, a due passi da via Quattro Fontane e da via del Tritone. Nel carrettino davanti a lui, nascosti, vi sono 18 chili di tritolo. 160 uomini della polizia nazista cominciano a salire per via Rasella cantando. Bentivegna alza il coperchio del bidone e avvicina il fornello della pipa alla miccia. A due passi da lì, ad attendere Rosario, è Carla, la sua compagna e futura moglie. Pochi secondi per fuggire. Poi è l'inferno. Il boato enorme dell'esplosione squassa il centro della città. Raul, Silvio e Francesco, gli altri componenti del comando, in tutto sono 12, scagliano le loro bombe a mano sulla pattuglia. Una scena da apocalisse. 33 i corpi dei soldati tedeschi senza vita. Abbiamo in linea lo storico Giovanni De Luna, che ci aiuterà anche a contestualizzare meglio la figura di Bentivegna e l'attentato di Via Rasella. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Allora, abbiamo ricostruito un po' per i nostri ascoltatori la figura di questo personaggio che partecipò, appunto, e quindi rischiò la sua vita per un attentato che però poi nel nostro paese ha suscitato molte polemiche, anche delle code processuali. Dal punto di vista storico, ora sono passati molti anni, quindi, come dire, la polvere si è depositata. Si può dire che finalmente si è fatto chiarezza su quell'attentato? Sì, guardi, l'essenziale è prescindere da quello che io definisco i percorsi della giuridicizzazione della storia. Cioè, non è tanto il problema appunto delle sentenze, dei processi che ci sono stati, delle verità processuali che sono state garantite e accertate. È un problema di una prospettiva, lo storico lavora in una prospettiva diversa. Quando lo storico si avvicina a Via Rasella e alle Fosse Ardeatine non può prescindere dal contesto complessivo in cui quegli episodi si realizzano e avvengono, che è quello della guerra totale. Guerra totale vuol dire non solo guerra combattuta con tutti i mezzi possibili, come era già stata nella prima guerra mondiale, ma guerra totale è qualcosa che coinvolge direttamente tutte le componenti civili, militari, economiche, sociali di un paese all'interno del conflitto. Questa è guerra totale. Sono, come dire, una dei versanti della guerra totale è la guerra ai civili, cioè quindi un qualcosa che rompe con tutta la tradizione delle guerre simmetriche novecentesche, che erano guerre combattute da eserciti contro altri eserciti. In Italia sono 15.000 le vittime civili delle rappresaglie naziste, certo. Sono 65.000 le vittime civili dei bombardamenti, quindi questa dimensione della guerra ai civili è una dimensione storicamente rilevante. Questo cosa vuol dire? Che i civili che erano vittime inermi di questa guerra in realtà a un certo punto impugnano le armi, cioè una volta che sono coinvolti come vittime, ma sono anche coinvolti come combattenti, e quindi questo è, come dire, la radice della resistenza in Italia, in Cecoslovacchia, in Jugoslavia, in Francia, dappertutto. Roma è Via Rasella è un atto di questa resistenza, di questa lotta che, come dire, in qualche modo non si propone all'interno delle regole della guerra simmetrica tradizionale, ma una guerra del tutto nuova che però, come dire, è la risposta alla guerra del tutto nuova fatta dai nazisti e portata avanti dalla Wehrmacht. E infatti, professore, lei su una intervista che è apparsa sulla stampa il 3 aprile sostiene che Via Rasella non va giudicata sul piano morale, ma come testimonianza della necessità che anche a Roma ci fosse una lotta armata in grado di spezzare la ragnatela di attendismo e complicità che era stata tessuta. Anche questo è un elemento importante per contestualizzare dal punto di vista storico l'attentato. Tenendo presente il contesto generale, Roma è l'unica grande città italiana che non si libera da sola, in cui non ci sono fenomeni insurrezionali in concomitanza dell'arrivo degli alleati. Napoli insorge, Torino insorge, Genova insorge, Firenze insorge, Milano insorge, Roma no. Quindi questo mi fa capire come il contesto romano fosse un contesto pesantemente attraversato, siamo da tutto un torbido sottobosco di relazioni, di collaborazioni, di intese con il nemico, eccetera. Quell'atto, quel gesto voleva dire anche rompere questo tipo di clima, proporre anche a Roma un modello di resistenza armata. Soprattutto, e questa è un'altra, come dire, considerazione da storico, per reagire alla frustrazione enorme che c'era stata nelle file partigiane a Roma dopo lo sbarco di Anzio nel gennaio del 44. Quello sbarco, gli alleati arrivano quasi alle porte di Roma senza che Roma dia nessun segnale in quella direzione. Gli alleati sono lì, non sono più fermati sulla linea Gustav, fermati a Cassino, ma sono lì, sono vicino alla città. Quindi, e tenga presente che sempre in quel marzo del 44 al nord ci sono grandi scioperi operai con le fabbriche bloccate dagli operai, scioperi contro i tedeschi. Quindi Roma in qualche modo era sola, ma era la sola che mancava l'appello in questa grande mobilitazione che c'è contro l'occupazione nazista. Via Rasella si spiega dentro questo contesto, altrimenti, come dire, tutto si risolve al fatto se era necessario o non era necessario e chi l'ha fatto, se si doveva assumere le responsabilità, ma questa è, come dire, una roba che riguarda più l'etica individuale di ognuno e riguarda le scelte individuali di ognuno più che le ragioni profonde della storia. Ecco, veniamo ora brevemente a anche una sua riflessione sulla figura di Rosario Bentivegna, che è scomparso proprio qualche giorno fa. L'idea è che l'ex partigiano Bentivegna fosse giovanissimo all'epoca dell'attentato, ma anche in tempi recenti, fermamente, fortemente convinto e determinato della validità, della bontà di quell'atto. Lei ha avuto modo di incontrarlo? Che impressione gli ha fatto? No, io non l'ho mai incontrato, non l'ho mai conosciuto, e le dirò che rispetto al Bentivegna, come dire, testimone, preferisco il Bentivegna partigiano. Nel sì. senso che io ho sempre avuto qualche cautela nel confrontarmi con la memoria dei reduci, con la memoria dei protagonisti, eccetera, perché la memoria ha un suo registro di comunicazione, ha un suo modello narrativo che è molto legato alla propria autorappresentazione, alla propria biografia, alle proprie emozioni, ai propri sentimenti. La storia è un'altra cosa. Per quanto riguarda la storia, Bentivegna è un ragazzo di 20 anni, no, che mette in gioco la sua vita per una scelta ideale. Questo è il Bentivegna, come dire, che interessa agli storici, cioè questa pattuglia di gattisti, uno dei quali era Franco Calamandrei, cioè il figlio di Piero Calamandrei, il padre della nostra Costituzione, è un Calamandrei che non è un tronco familiare che abbia incitato alla violenza e all'azione diretta. Questi giovani rompono con le tradizioni familiari, rompono con l'attendismo sociale collettivo che li circonda, rompono con il quieto vivere di una loro collocazione borghese agiata e tranquilla in cui avrebbero potuto starsene senza nessun problema, senza nessun rischio. È questo che ne fa un qualcosa di unico, anche in questo contesto, diciamo, esistenziale, psicologico, che Via Rasella va in qualche modo interpretata. Questi giovani, per poter fare quell'azione, devono metterci un surplus, non bastava essere antifascisti e partigiani come al nord, esserlo a Roma voleva dire metterci qualcosa di più, un qualcosa di più che attinge proprio direttamente alla dimensione individuale di ognuno di loro. Grazie professor De Luna e buona serata. Grazie a voi, arrivederci.